la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, 16, 30, 36, va, non ci illudiamo che siamo partiti chissà come in orario anche oggi. 800 24 00 24, numero per telefonare. E oggi dedichiamo la puntata a un bis, mi sembra obbligato, visto che settimane fa ci occupammo della vicenda del Teatro Costanzo, del Teatro dell'Opera di Roma. Ricordate il sovrintendente all'epoca, Carlo Fuortes, con una decisione che io stesso per primo insomma salutai come una rottura, salutare, perché il sovrintendente mise i sindacati di fronte al fatto compiuto e disse: cari signori, qua si volta pagina, adesso io licenzio tutta l'orchestra, oltre 180 orchestrali, esternalizzazioni, fatevi una cooperativa, perché qua non si riesce più a capire come fare, visto che voi continuate a difendere un'impostazione sbagliata di bassissima produttività, troppa indennità e così via. Ma le svolte nel settore pubblico c'erano sempre qualche cosa di strano, quindi lezione per me, doppia lezione, e giustamente oggi ci occupiamo dell'esito, perché naturalmente è tutto tornato indietro, i licenziamenti non ci sono più. Allora, prima riflessione, ci stiamo spaccando la testa da mesi sui licenziamenti individuali, economici, disciplinari, discriminanti, sul Jobs Act che arriverà, su questo c'è lo sciopero dei sindacati e così via, sui licenziamenti nel settore privato individuale. Nel frattempo invece nel settore pubblico un teatro usa licenziamenti collettivi alla fine della fiera, perché cosa? Per poi rimangiarseli, cioè li utilizza come strumento per sedersi a un contratto e fare picchiare i pugni al contratto, perché nel frattempo ieri è stata, ve lo spiegheremo in trasmissione, firmata un nuovo contratto generale con tagli di molte indennità. Però è un paradosso o no che mentre ci spacchiamo la testa sui licenziamenti disciplinari, discriminanti, economici nel settore privato e individuali, nel frattempo nel settore pubblico si fanno i licenziamenti collettivi esclusivamente come arma e ricatto contrattuale? A me sembra un paradosso assoluto. Invece ho visto che nessuno l'aveva notato, cioè tutti dicono vabbè, meno male, si evitano i licenziamenti a Roma e contemporaneamente c'è anche una bella stretta ai costi, quindi Giannino, non rompere le scatole, dovresti essere contento. Francamente io penso che se una azienda privata avesse usato un licenziamento collettivo come strumento per risedersi poi al tavolo contrattuale e ottenere dei tagli, avremmo avuto sparate su tutti i giornali. Invece se lo fa il settore pubblico, mentre ci strappiamo i capelli per disciplinare le singole tipologie dei licenziamenti privati individuali, e lo capisco, non lo sto condannando, lo fa il pubblico, non commenta nessuno. È un paradosso o non è un paradosso che il settore pubblico ricorra ai licenziamenti collettivi, quelli che non fa mai semplicemente per strappare tagli di costo, che non è capace dialogando con i sindacati e convincendoli o mettendoli di fronte alle loro responsabilità di conseguenze di ottenere? Ma a me sembra un paradosso. Comunque mi sembra obbligato, come sentimmo un sindacalista nella prima trasmissione, sia pur di un sindacato che aveva firmato gli accordi che altri sindacati interni non avevano firmato e contrastavano, di reinvitarlo oggi. E quindi è con noi oggi pomeriggio il segretario regionale della FIST CIS di Roma e del Lazio, Paolo Terrinoni. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio, grazie. Chiedere la sua opinione prima di entrare nei dettagli di questo accordo, che comunque è una svolta importante rispetto ai costi di Roma, ma il fatto che nessuno faccia caso a che nel pubblico si usi il licenziamento collettivo ma come arma contrattuale, sono io secondo lei a essere come al solito prevenuto, come pensano molti, oppure no? Bisognerà d'ora in poi capire che nel settore pubblico si usano i licenziamenti collettivi per poi rimangiarsi e sedersi ai contratti? Che lei che pensa? Ma intanto qui c'è un confine che non sappiamo bene se è pubblico o privato, perché questo ancora lo dobbiamo capire con il Teatro dell'Opera, visto che il CDA è del Comune di Roma, sì. Però se è stato pubblico al 100% la legge 223 non poteva essere applicata, cosa che noi comunque gliel'abbiamo contestata, noi gliel'abbiamo detto un milione al tavolo, gliel'abbiamo detto che è illegittima, che comunque era una decisione forte eccetera, e che non potevamo fare una trattativa con la pistola alla tempia. E invece esattamente è andata così. Esattamente è andata così, perché diciamo che il Consiglio di Amministrazione, Fuortes, se non l'hanno rinnovata, e a quel punto la 223 del 91 ha una procedura che dura 75 giorni, sì. E se nei 75 giorni si trova un accordo, i licenziamenti vanno via. A quel punto bisognava fare una scelta. Di fatto è come, prego, se Fuortes, il sovrintendente, vi avesse dato ragione, perché alla fine, seduti al tavolo, 10 incontri, eccetera, eccetera, e nei 75 giorni, anzi, ben prima, si è rimangiato tutto. Quindi vi contestava che, come dicevate voi, i licenziamenti fossero illegittimi, ma di fatto è come se avesse riconosciuto il fatto che i tempi e la modalità per cui era obbligato a farli rientrare, come avviene, erano quelli che dicevate voi, o no? Se si trovava un accordo, però io vorrei sottolineare una cosa. Allora, io da una parte sono contento perché ho salvato 180 posti di lavoro, 180 famiglie dal licenziamento, ma poi da un'altra io sono proprio rammaricato, perché io sono arrabbiato con l'azienda, sono arrabbiato, e comunque io a luglio avevo firmato un accordo insieme alla UIL di un piano. L'ho ricordato, come esattamente, l'ha ricordato lei in premessa. Quell'accordo intanto prevedeva che non veniva licenziato nessuno, che non perdeva un euro nessun lavoratore, e inoltre ha dato la possibilità al teatro di avere un finanziamento dal Ministero della Cultura di 25 milioni di euro. Ok, però il problema è che resta... Io ho dovuto scegliere il male minore. Ha dovuto scegliere il male minore perché altri sindacati contestavano. La verità è che in quel momento contestavano. Poi la verità è che però da tutto questo esce fuori una serie di decisioni che altrimenti non ci sarebbero state e non c'erano neanche nell'accordo di luglio. Perché? Perché escono fuori l'extra da 1200 euro a settembre che veniva erogato come pre-predicesima non c'è più, e sono 650.000 euro di risparmio. È tagliato del 20% i compensi per le prime rappresentazioni e del 50% quello per le eventuali repliche, una delle tante indennità che criticavamo al Teatro dell'Opera di Roma, non in linea con i costi e così via. Poi salta anche l'indennità per gli spettacoli all'aperto che si dava per la stagione estiva. Quella diciamo che l'abbiamo razionalizzata. L'avete razionalizzata, si risparmiano altri 200.000 euro. Esatto. Però la domanda che le faccio io: bisognava allora ricorrere alla minaccia degli scioperi per farlo capire ai sindacati dipendenti? Ma questo non lo deve chiedere a me. Devo chiederlo alla CGIL e agli altri che non lo firmavano. Questo lo sta dicendo lei. A me non lo deve chiedere, perché io quell'altro accordo del piano di risanamento l'avevo portato e poi era stato anche legittimato da un referendum. Però ormai quello è andato, adesso abbiamo fatto questo accordo che comunque... sul premio di produzione che cuba un risparmio di circa 1,5 milioni di euro, è un congelamento, perché ove si raggiunge il pareggio di bilancio nel 2015-2016 i soldi vengono ai lavoratori. Nel frattempo l'obiettivo è quello di rimettere in regola il deficit. Esattamente. Lei quindi non vede un paradosso, perché dice non è colpa nostra ma di altre parti del sindacato. A proposito di unità sindacale, visto che qua si tratta anche nel frattempo di decidere chi sciopera con chi a livello nazionale, e la sua organizzazione come confederazione, la CISL fino a quest'oggi ha detto che non lo fa, ecco, lo sciopero insieme alla UIL, insieme alla CGIL, e oggi si sono aggiunti anche la UGL e così via, ne fa uno nel settore pubblico ma non lo sciopero generale. La domanda che le faccio è: però in tutta questa vicenda, io sono contento perché comunque alla fine si è rappattumato, penso però che dovunque altrove nel pubblico impiego o anche nel privato, perché siamo in questo ircocervo che non si capisce se l'Opera di Roma è pubblica, come penso io, o privata o finta privata, però siccome lì partivate da un accordo votato a maggioranza ma confermato nel referendum dalla maggioranza dei lavoratori, di fatto sia i licenziamenti che la conclusione di ieri fanno a pezzi l'idea che si possono anche sentire i lavoratori a maggioranza decidono, e stanno in quel caso con i sindacati secondo me più ragionevoli, ma questa era la mia opinione, riconoscendo che altri erano contrari, ma comunque viene stracciato il principio della libera espressione dei lavoratori, perché questa roba qua non è quella che hanno votato. Certo. Beh, intanto questa roba qua la sottoponiamo, noi abbiamo firmato un'ipotesi perché va sottoposta sia al consenso dei lavoratori, che faremo presumibilmente venerdì, sia al consenso del CDA. Solo successivamente a queste approvazioni positive possiamo sciogliere le riserve e dire questo accordo e non c'è più licenziamento. E quindi noi ci auspichiamo tutti La positività esca fuori venerdì per noi e il 24 dal consiglio di amministrazione, anche perché il teatro ha necessità di ripartire. L'immagine, per carità, Fortes dice che ha sentito Muti, forse potrebbe tornare anche il maestro Muti. Io sono sempre un cacadubbi, come si suol dire, con una parola un po' forte, però ho l'impressione che d'ora in poi chi minaccia i licenziamenti si becca una risata, punto numero uno. Quindi credo che Fortes, comunque, invece di dire che non ha marcia indietro, dovrebbe ripensare. Secondo, i lavoratori, quando gli sottoporrete il referendum, diranno a voi: ma scherzate o fate sul serio, visto che poi magari ci direte un'altra cosa tra due mesi. Insomma, questa vicenda dell'Opera di Roma, con tutta la buona fede da riconoscere a voi, a Fortes, agli altri sindacati, che secondo me ne escono con la strotta due volte, non una, però è una vicenda che a me non piace, perché mi lascia un amaro in bocca, perché invece di cominciare da subito sulle cifre, vedere chi ci stava, far votare, far vedere che nel pubblico ci si può confrontare ragionevolmente, si fa una minaccia, il licenziamento, si torna indietro, si cambiano le scelte. Ma per carità, poi vedremo, intanto adesso dobbiamo fare l'informazione dovuta a quella sulle strade, però quello che mi colpisce è che i giornali questa roba la trattano, la mantano, tranne che a Roma, ma quelli nazionali non hanno capito quello che è avvenuto. È avvenuto un dramma vero che ha un impatto su come si contratta e come si rompe e poi si ricuce in tutto il mondo pubblico, oltretutto con un grande maestro come Muti che aveva alzato la palla, eccetera eccetera. Siccome l'informazione, quindi io faccio autocritica, non sta capendo che a Roma, invece di far bene e di dimostrare che potevamo avere un metodo per le buone scelte, lo abbiamo fatto un po' all'italiana, esagerando, teatralizzando, vi buttiamo fuori, ma no, non è vero, ma come, non potete buttarci fuori? Dici, no, possiamo buttarvi fuori, di fatto, però comportandosi come se non si potesse davvero, e allora perché cavolo licenzi? Quindi io non sto difendendo qualcuna delle parti, dico che è una vicenda purtroppo troppo all'italiana. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a parlare di come è finita, pare, la vicenda del Teatro dell'Opera di Roma dopo il licenziamento di oltre 180 orchestrali, macchina indietro, il nuovo accordo invece taglia costi, benefico, ma non si capisce allora perché fare tutto quello che è avvenuto prima. Prima di tornare al nostro ospite, due brevi osservazioni su due fatti del giorno di una certa importanza, secondo me. Allora, il processo di Eternit, quindi la strage dei lavoratori durata molti anni per via della lavorazione in imprese di cui si è discusso a lungo nei processi, se le imprese fossero consapevoli in quegli anni, stiamo parlando degli anni 60, del rischio per la salute oppure no, e comunque processi che si erano chiusi in primo grado e poi in appello con condanne molto pesanti per i proprietari e i manager degli stabilimenti Eternit. Oggi si aspettava e si aspetta ancora la sentenza in Cassazione, ma in Cassazione il procuratore generale ha chiesto la prescrizione. Allora, domanda, questa cosa domani troverete un mucchio di code polemiche sui giornali. Bisognava aspettare la Cassazione perché l'accusa, perché il procuratore generale rappresenta l'accusa in Corte di Cassazione, si rendesse conto che i reati erano prescritti? Come volete adesso che la gente non insorga, i familiari delle vittime e così via, in maniera, se volete, anche giustizialista, dopo condanne in primo e secondo grado, con condanne fino a 18 anni per il patron svizzero dell'Eternit dell'epoca, per poi scoprire solo in Cassazione che i reati erano prescritti? Ecco, a me queste cose fanno cadere le braccia, a dirvi la verità. Seconda cosa, comunità montane, quando si è trattato per anni di chiedere che lo Stato tagliasse, diminuisse le comunità montane e i costi, lo sapete che cosa è successo, le resistenze sono tutte importanti e così via. Vi abbiamo raccontato tante volte i criteri abbastanza, anzi li abbiamo abbastanza, molto discutibili, con cui si individuano a poche centinaia di metri di altezza già le comunità montane. Finché si è trattato di tagliare quello, niente. Ora invece, ex abrupto, salta metà delle esenzioni fiscali per le aree agricole, quindi esenzioni fiscali IMU, da oltre 3.500 comuni montani, in 1.600 di loro spariscono. Quindi quando si tratta di tagliare le spese, niente da fare. Quando si tratta invece di prendere dalle tasche dei contribuenti, ecco qua che il nostro criterio respinto per i tagli alle spese delle comunità montane viene improvvisamente accolto e fatto proprio dallo Stato per diminuire ovviamente le esenzioni fiscali, cioè incassare il doppio delle tasse in quei 3.500 comuni che adesso diventano 1.600. Lo trovate sulla parte norme e tributi del Sole 24 Ore di oggi. Poi dicono che sono io, ma è sempre così, mi sembra che vada a finire. Allora, nel frattempo torniamo alla vicenda del Teatro dell'Opera di Roma. Abbiamo Mario da Roma che ci ha telefonato. Mario, come la pensi? Ah, buonasera, penso che l'oggetto dell'azienda dell'Opera di Roma è un oggetto che permane nel tempo, perché Roma ha bisogno di un'orchestra e ha bisogno della sua lirica e del suo sinfonismo. È un'orchestra, non si improvvisa come non si improvvisano i ballerini e tutto il corpo. Naturalmente, diciamo, anche nel privato, se ci sono difficoltà per un'impresa, si rivedono gli accordi, si riducono le retribuzioni, si fanno contratti particolari per non chiudere, ma non è che si mandano via quelle persone perché sono state troppo cattive precedentemente. Si rivedono le cose. Quindi lei dice che la richiesta, anzi la decisione di esternalizzare, quindi di licenziare gli orchestrali dicendo organizzatevi in cooperativa e vedete voi, era sbagliata. Ho capito bene, Mario? Sbagliata, cioè certo. Esternalizzare un'orchestra sinfonica significa non avere un'orchestra sinfonica ma avere una banda. Anche se abbiamo scoperto che accordi di questo tipo ci sono in grandi teatri europei e che in quei teatri europei questo tipo di organizzazione sottolinea molto la responsabilità degli orchestrali, apre a nuovi innesti giovanili di talento, cosa che nelle orchestre italiane è molto più problematico, e innalza molto la produttività. Non esiste questo come modello maggioritario, a essere corretti, sono delle eccezioni, però erano delle buone eccezioni. Terrinoni, tornando a lei, secondo l'atmosfera che percepisce con le altre organizzazioni sindacali, dall'accordo, la previsione di accordo di ieri, ne nasce un'atmosfera ricompartata tra sindacati e dipendenti, avendo insomma accettato più responsabilmente queste cose dopo la minaccia di licenziamento, o resteranno ancora code polemiche secondo lei? Abbiamo lavorato tutti per un unico obiettivo, per salvare i posti di lavoro. Ecco, e adesso che si tratterà poi di tagliare davvero quello che si è deciso, non è che si riprende la faccenda e ci saranno altri scioperi? No, non è possibile, perché all'interno dell'accordo comunque abbiamo concordato che sui temi e sui contenuti dell'accordo la conflittualità non dovrebbe più essersi, anzi non c'è, perché l'abbiamo siglato, insomma, ecco, sui temi dell'accordo. Si sentirebbe di dire a questo punto che il Teatro dell'Opera di Roma diventa una specie di punta di lancio del rinnovamento rispetto a problemi di tanti altri teatri italiani, perché non è che eravate solo voi l'eccezione delle poche recite e così via? Con questo accordo noi sicuramente abbiamo lavorato e sono convinto che ci sarà il rilancio del Teatro dell'Opera di Roma. Vabbè, io questo naturalmente me lo auguro, vedremo se tornerà anche il maestro Muti, ma maestro o non maestro, il problema è trovare procedure per fare più produttività al settore pubblico senza fare teatro inutile. E soprattutto ricordatevi, non si scopre in Cassazione che i reati sul lavoro sono prescritti. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.